sapeva dove andare, lontano dagli occhi, lontano dalle illusioni che la mente accoglie, ma non lascerà mai. Vedo e credo in quella parte di me che, lontano dal corpo, sa sempre cosa fare, persa in un'occasione, lontano in mille direzioni, dove c'è qualcosa, ma so che non sa.